Dai tuoi occhi vedo tutto dentro me, tutti i sogni e le stelle che vorrei. Forse troppi, perché a volte cado giù, ma sognare è parte di me. Dici che per te son troppo e poi mi cerchi tu, prometti di cambiare ma poi ci pensi su, litighi con i pensieri, tanto già lo sai che non mi arrendo mai, io non mi arrendo mai. Son